Allora, intanto grazie a tutti, grazie per l'invito, come sempre è sempre un piacere. Io sono Luca e mi occupo di scienze dell'alimentazione in Sapienza, il gruppo del professor Donini, di cui diciamo uno dei grandi temi che si toccano da noi è proprio quello di disturbi del comportamento alimentare. Diciamo io come biologo me ne occupo diciamo di striscio, non totalmente, ma a noi capita a Sportello, come ha detto Mauro, faccio parte del gruppo di volontari dello Sportello Ascolto Nutrizionale e ovviamente noi siamo una sorta di prima linea e tutto quello che arriva, diciamo così, cerchiamo, no, di trattarlo nella modalità più consona possibile. E volevo oggi proporvi un pochino quella che è stata e che è un po' anche la mia visione, insomma, su come. Su cosa sta cambiando, no? A livello culturale? Abbiamo detto prima Marta, relazioni umane, no? Una parola fondamentale, sempre più dimenticata, perché le relazioni umane passano tutte filtrate da questo. Io sono un non gastrocapitalismo, ma cellulare capitalismo. Per me questo è proprio una barriera, sta diventando sempre più una barriera tra me e voi. Per fortuna non ci riprendo, non ci mandano in streaming, no? E invece in questo caso c'è una vera relazione umana. Io che vi vedo negli occhi, no? Vedo voi che fate così, voi che fate così, voi che vi grattate, no? Per me questa è tutta relazione umana. Allora, diciamo il DSM-5 è un mattone, un bel tomo di disturbi del comportamento alimentare, disturbi del comportamento in generale, quindi un manuale di diagnostica e statistica utilizzato da medici, psicologi, psichiatri, che descrive, e in un capitolo descrive quelli che sono non più chiamati DCA, cioè una nuova terminologia, sono chiamati DNA. Tanto per fare confusione, no? DNA già un'altra parola, hanno chiamato DNA, disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Fondamentalmente, e quindi e tra questi ce ne sono alcuni che avevamo già visto nel DSM-5, come per esempio l'anoressia e la bulimia, il binge eating disorder, no? Quindi il mangiare in modalità incontrollata, grandi quantità di cibo, e poi ce ne sono di nuovi e di alcuni emergenti che ancora non fanno parte del DSM-5, ma che sono dei comportamenti in crescita. Per esempio, l'ortoressia è entrata a far parte di disturbi del comportamento alimentare, quindi un tipo di alimentazione molto restrittiva o evitante intere fette e gruppi alimentari. La vigoressia o bigoressia, sempre più, io la vedo sempre di più, soprattutto tra i giovani, no? Frequentando molto il parco, frequentando chi fa calisthenics, c'è una. Poi c'è una linea divisoria tra quello che è sano e quello che comincia a diventare patologico, quindi no, un po' come l'inverso, no, dell'anoressia, no? C'è sempre una dispercezione corporea, un po' al contrario. E poi la sindrome yo-yo che ho scelto di inserire perché è un po' quella, è una sorta di bulimia molto a lungo termine. Cioè io mangio troppo per un periodo X di diversi mesi, di anni, per poi mettermi a dieta, ritorno indietro, poi rimangio troppo, poi ritorno indietro, rimangio troppo, no? E si finisce per non trovare mai l'equilibrio. E vi porto alcuni dati per introdurre il problema. Questo è dati dell'Istat. Vi ho, ovviamente non tutti hanno 14 decimi di vista, dal 2014 al 2023 quelli che sono le percentuali di giovani, quindi 18-24 anni, perché l'Istat non riporta in età pediatrica, sia di sottopeso che di obesità. Ok? Dal 2014 questi sono di sesso maschile, dal 2,8 come vedete a 4,8, cioè c'è un aumento quasi del 100% di soggetti, quindi ragazzi in questo caso, che hanno un indice di massa corporea inferiore a 18. Dall'altro lato, anche qui più del 50% di giovani che hanno un indice di massa corporea superiore a 30. Io do per scontato dell'indice di massa corporea, che è il rapporto tra il peso e l'altezza al quadrato. Okay? che viene diviso come un range di normalità che va da 18 più o meno a 25 e poi da 25 a 30 è chiamato sovrappeso, da 30 in poi è chiamato obesità. Sotto i 18 andiamo nel sottopeso. E questo è di sesso femminile. Come vedete, se il sesso femminile sulla parte già di sottopeso, no, già una problematica molto più estesa nel sesso femminile, nei giovani sesso femminile c'era stata una riduzione nei 5 anni fino al 2019, per poi, triggerata proprio dal Covid, cioè arriva una sorta di grilletto che riaccende la problematica e si ritorna a salire. Dall'altra parte, sull'obesità invece un costante trend in aumento come tutto quello della popolazione mondiale. Io non vi mostro la popolazione mondiale, ma siamo in costante aumento di peso. E qui, prima di entrare un po' in quello che potrebbero essere le cause di questo aumento, a qualche altro dato. Vedete qui dal 2019 al 2021 questi sono gli accessi delle dimissioni per anno all'interno dei delle strutture sanitarie nazionali. Guardate, 2200, okay, per anoressia nervosa, nel 2021 sono 3600, cioè un aumento del 50%, più del 50% di aumento. E in un totale, quindi di tutti i disturbi, quindi dall'anoressia alla bulimia, la pica, il disturbo della ruminazione, da 4500 a 6200. Quindi qualcosa sicuramente con il Covid, era già un trend in salita, ma con il Covid qualcosa è successo. E questi anche qui sono divisi per insieme maschi e femmine, ma come vedete c'è sempre un aumento. Questo è 2019, 10.000 totali, 2021, 12.000. Ok, queste sono le diagnosi, per tutti i tipi di diagnosi. Perché è importante poi parlarne? È importante da tanti punti di vista. Ho deciso di mostrarvi di non mostrarvi i grafici di mortalità, no? Per non rendere tutto molto più funereo. Però anche se andiamo su varie difficoltà di secondo livello, per esempio, tutte le donne con anoressia nervosa hanno una maggior probabilità di complicanze nella gravidanza. No, sappiamo l'importanza, no? Della gravidanza in questo mondo in cui si generano figli sempre di meno, quindi tutte le donne con anoressia nervosa hanno una maggior 12 volte, 2 volte e mezzo in più la possibilità di avere anemia, di avere un ritardo nella crescita fetale, di avere contrazioni premature, così come bulimia nervosa, ritardo nella crescita fetale, contrazioni premature, così chi ha un BG in disorder può avere un'ipertensione al momento del parto e così via, no? Morte perinatale 3 volte di più, morte prematura una volta il 20% in più e via dicendo, insomma. Quindi sono tutti questi disturbi hanno una ricaduta molto molto importante in quella che è la gestione, no, di alcuni aspetti e momenti fondamentali della nostra vita. Rimane il fatto, no, che sebbene questo è un articolo recentissimo, se non sbaglio, appena o comunque relativamente recente, no, 2016, questa è la curva di rischio di mortalità a seconda dell'indice di massa corporea. Il top è qua. Ok, il minor rischio si ha con un indice di massa corporea intorno a tra i 23 e i 24. Più mi sposto di là, quindi più vado verso il sovrappeso e l'obesità, più aumenta il rischio, più mi sposto al contrario dall'altra parte, quindi più scende l'indice di massa corporea, meno ho rischio, cioè più ho rischio. Ok, però in questo caso un conto è in persone tendenzialmente con un approccio al cibo tendenzialmente non normale, ma quando entriamo nell'aspetto patologico, il cibo e l'alimentazione, ne parlavamo prima con Ilenia, l'altra collega che sta con noi allo sportello, diventa un fattore secondario, perché entrano in gioco diversi fattori diversi dall'alimentazione, e fondamentalmente poi quei pazienti non vengono più, non afferiscono più da noi in alimentazione, ma ci ritornano dopo un percorso d'altro tipo. Perché? Per i DCA l'alimentazione È un po' come un passaggio, cioè un po' come un mezzo. Adesso cerchiamo di capire quale. E il peso alla fine è semplicemente un termometro. Cioè non funziona che se io cambio il peso, tolgo il DCA. Per togliere il DCA ho bisogno di qualcos'altro. Io avevo deciso di mostrarvi un video, purtroppo non siamo riusciti a mostrarvelo. È un video, non so chi l'ha visto, Vite al Limite. Vite al Limite è un programma di real time del dottor Nosaradan, questo chirurgo americano, credo California, no, del Texas, Houston, lui sta a Houston, che si è inventato questo programma, che all'inizio era un programma. È un programma pazzesco, poi è diventato un po' troppo commerciale, però anche per noi addetti ai lavori, io l'ho visto puntate e puntate e puntate su ripetizione. Perché per me era molto interessante. E era un piccolo trailer di 1 minuto e 20. L'idea era farvi ascoltare, proprio un trailer, quelle parole che venivano dette in questo 1 minuto e 20. E secondo me dentro quelle parole c'era già un po' tutto. Che cosa c'era dentro queste parole? Così ve le racconto io senza che vi faccio vedere il video. Alla fine in quelle parole si trovavano parole come incubo, nemico, odio e colpa, pronunciate in 1 minuto e 20, e risolvere qualcuno che mi aiuti, mia nonna. C'erano parole da una parte di conflitto, no? Proprio parole di conflitto estremo, e dall'altra parte parole di speranza. Nulla a che vedere con l'alimentazione. Cioè, qui non c'è, devo mangiare di meno, devo mangiare di più, devo essere più attento, togli i carboidrati. No, è totalmente, proprio tutt'altro. Okay? Questo era per farvi vedere che poi la problematica in disturbo del comportamento alimentare esce da quello che è la sfera dell'alimentazione per entrare in qualcos'altro che è più il vissuto dell'essere umano che abbiamo davanti, e come vedete spesso e volentieri è un vissuto di conflitto, dove i conflitti la fanno da padrone. E che cosa facciamo noi quando arrivano i conflitti? Quando viviamo un conflitto ci proteggiamo, e questo è quello che succede. Nei disturbi del comportamento alimentare, così in tante altre patologie, quello che succede è che vengono scatenate e attivate delle difese della persona. La persona ha quelle difese, risponde come può. E spesso e volentieri, in alcuni casi, risponde mangiando o togliendo il cibo. Può rispondere mangiando con una materia molto rigida, quindi con una rigidità, o può rispondere compensando o attivando una fitness, una muscolarità molto importante. Sono semplicemente vissuti e delle risposte a un vissuto conflittuale. E che cosa sta succedendo in questo momento? Questo c'è sempre stato. Come abbiamo visto, no? Comunque quel 2,6% 10 anni fa c'era, ed è così da tantissimo tempo. L'anoressia è anoressia da tanto tempo, e le persone con un indice di massa corporea, quindi con obesità, ci sono da tantissimo. Ma cosa succede? Perché stiamo andando in un trend in crescita? Stiamo andando in un trend in crescita perché un po' si è ribaltata, no? Vedete, questa è la vena del Willendorf. No, la famosa vena del Willendorf, una delle prime ritrovate, no, di arte e di scultura al mondo. Adesso un po' la situazione, no, va ribaltandosi. Ma ancora di più stiamo attraversando un periodo, no, e come sempre, purtroppo passa sempre tutto tramite questa estroflessione del braccio, con una comunicazione che è sempre più aggressiva, sempre più capillare e onnipresente. Noi siamo costantemente là dentro, soprattutto i nostri ragazzi, i nostri giovani stanno sempre, vivono con la testa fissa là dentro, cioè finiscono per trovarsi tutti in circolo, tutti là dentro, cioè si parlano tramite il telefonino, si parlano tramite il telefonino, e questo gli rende tutto molto più difficile, rende più difficile approcciarsi all'altro, da tanti punti di vista. Questi sono, diciamo, due libri e un film che io vi consiglio. Io ho trovato molto utili, relativamente molto semplici. To the Bone è un libro fino all'osso, no? Vuol dire, un film come si chiama? Matrix, quello di Matrix, Keanu Reeves, con Keanu Reeves, molto interessante. Così come Anoressia è un testo dell'Asino d'Oro, quindi la casa editrice creata tra gli altri da Massimo Fagioli, uno degli psichiatri più famosi, faceva le terapie di gruppo, no? Le terapie di gruppo a Trastevere. e poi Social Fame, Social Fame, uno degli ultimi libri della Dalla Ragione, se non sbaglio, sì, della Dalla Ragione, che è una delle massime esperte in Italia, che io, e che proprio va a cercare, no? E cercare di capire, di analizzare quindi come i social media, no? Stiano impattando su quella che è l'adolescenza dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. E questo infatti spesso e volentieri quando ci andiamo a impelagarci sui social, io sono, mi sono fatto un po' baby boomer, nel senso che non sono della generazione baby boomer, ma mi sono cancellato da, da tutta una serie di social network e vivo molto meglio, però questo è quello che passa, passa il collarbone challenge, ok, quindi mettere un tot di numero di monete qui nell'incavo sopra la clavicola. Passa nel bikini bridge, questo purtroppo è passato, tante foto fatte così anche da persone normali, ok, quindi tante foto a mostrare quello che era il ponte che si crea tra le due anche, ne ho viste tanti, c'è stato credo 6 o 7 anni fa un'esplosione di questo tipo di foto fatte anche da persone normali. Il problema è che queste avallano, no? Una volta sono accondiscendenti, è passato il messaggio, vuol dire questo va bene, questo è trendy e quindi si può fare, così come una sedicente influencer, no, mostra il tie gap, quindi quello spazio che c'è tra le due gambe, e lo racconta molto, in maniera molto divertita, e tutto questo viene fondamentalmente avallato da vagonate di mi piace, di click, e dal fatto che una persona poi ha il potere di influenzare, no, quello che è il pensiero altrui, in un mondo in cui l'autonomia e la capacità di pensare in maniera autonoma è molto difficile da trovare, e questi sono altri modelli di riferimento distorti, no? Pensiamo alla bigoressia, no, di cui ho parlato prima. Questa è la parabola di Dwayne, vabbè, The Rock, detto The Rock perché piano piano, no, sta diventando The Rock, ma dove quei muscoli sono una corazza, quei muscoli diventano una corazza, lui non fa altro che crescere. Ci sono storie di persone che poi non riescono più a allenarsi e si suicidano. Cioè fondamentalmente quei muscoli erano diventati una corazza psichica per quelle persone. E così questa è una delle altre, no, personaggi famosi, fondamentalmente che posta foto su, sui suoi social, ma con un peso relativamente ridotto. E questo porta a pensare che questo è il modello di riferimento, non è solo la modella che fa la sfilata, ma è proprio tutto un sistema che porta a questo modello di riferimento. Pensiamo a una 14enne, una 13enne, ecco lì abbiamo un problema. Per esempio siamo andati a fare una giornata di educazione alimentare nelle scuole e la maestra ci ha chiesto, tra i vari temi tra cui toccare l'integrazione sportiva del ragazzo di 12 anni, che noi siamo guardati e detto: come? L'integrazione sportiva nel ragazzo 12enne? Ma no, va bene, Sinner a 13 anni ha iniziato a giocare a tennis e adesso è numero uno al mondo, bene, ci fa piacere per Sinner, ma comunque penso che anche Sinner a 13 anni non abbia preso gli integratori per diventare quel super muscoloso che non è, tra l'altro. Ok, quindi sti ragazzini a 12 anni lasciamoli in pace, facciamoli mangiare bene, facciamoli crescere per bene, facciamoli divertire, cioè lo sport è un divertimento fondamentalmente, faranno anche agonismo, ma deve rimanere un piacere. Non possiamo parlare di integrazione sportiva, se no stiamo alla Russia, alcuni comportamenti dei cinesi che dopano i ragazzi, ma il problema che ci siamo posti è se arriva al ragazzo comune della famiglia comune, vuol dire che è già passato, cioè quello che fa l'adulto è già passato sui bambini, noi lo stiamo replicando sugli adolescenti, sul 12enne, sull'11enne. E questi sono, concludo, così poi vi lascio a Maria Cristina, test, diciamo così, diagnostico, non possiamo chiamare diagnostico, qui davanti c'ho la collega, che da noi viene, che almeno il professor Donini sta sviluppando, con quelli che sono i 13 segni comportamentali da tenere sotto controllo. Quindi e dall'altra parte vi ho messo anche alcune caratteristiche che si possono notare come per capire se il problema già c'è. Ok? Per esempio, se il ragazzo o la ragazza ha avuto una variazione di peso corporeo negli ultimi mesi, sia un aumento che in eccesso. Questo già è un campanello d'allarme che dovrebbe far pensare che qualcosa potrebbe essere successo. Se c'è stata ovviamente una menorrea, quindi una scomparsa delle mestruazioni, a meno che la ragazza non sia incinta, se si stia autoinducendo il vomito, no? Se un lui o lei si stanno autoinducendo il vomito, e il segno di Russell, che è proprio lo sfregare, no, dei denti sulla mano, no, dopo essersi provocato il vomito mettendoci le dita in gola, così un uso di farmaci o integratori con la funzione di lassativi o diuretici senza prescrizione medica. Poi abbiamo altri cambiamenti importanti, per esempio come una riduzione o un aumento significativo delle porzioni. Questo già dovrebbe far pensare, no, che sta succedendo qualcosa, qui qualcosa è ancora in atto. O l'eliminazione di interi gruppi alimentari, no? Stiamo restringendo la nostra dieta. In questo caso questa è una carotenotermia, cioè fondamentalmente è un piede molto più arancione dovuta a una grande assunzione di beta-caroteni, dovuti magari a un'assunzione di grandi quantità di carote, perché le carote sono un alimento che si riesce a sgranocchiare, quindi dà soddisfazione perché si mastica, ma ha un bassissimo contenuto calorico, e quindi sgranocchiare alimenti a basso contenuto calorico è una delle modalità, no, che ci sono per continuare a perdere peso. Oppure la perimilolisi, che è quindi la perdita dello smalto dovuta proprio al vomito, no, quindi all'acido cloridico che va a intaccare lo smalto dei denti. Altri segni sono l'abitudine a mangiare di nascosto, difficile, ma poi se vedete che cala il numero dei biscotti, no, cerchiamo di, io sono fortunato e sono un visivo, quindi mi accorgo sempre quando cambia qualcosa in casa. Oppure una perdita di controllo di cosa o quando si mangia, oppure l'impossibilità di smettere di mangiare. Una grande attenzione al peso o all'immagine corporea, quindi ragazzi o ragazze che non fanno altro che guardarsi allo specchio, non fanno altro che toccarsi, no? Stanno sempre a pensare, oh, ma mi è cresciuto il bicipite, o sono più magro, no? da qui a 10 minuti. Un'insoddisfazione per il peso o per il proprio aspetto, per carità, se siamo in fase adolescenziale è anche normale, no? Perché siamo proprio in fase di costruzione dell'identità corporea. Però un conto è la costruzione di identità corporea, quindi quel dubitare, un conto è farlo ogni 30 secondi, un'ossessione. Un isolamento sociale, quindi non frequentare altre persone o rimanere molto in casa dovuto proprio a un'insoddisfazione personale. Una ricerca ossessiva di cibi sani, un'attività fisica eccessiva. E poi problematiche d'altro tipo, per esempio un po' più fisiologiche, come una pressione bassa, un battito cardiaco rallentato o un freddo agli arti, quindi in caso quindi di un'alimentazione a basse calorie. E questi sono invece, se quelli di prima hanno alcuni segni di una problematica di tipo diciamo di riduzione dell'alimentazione, quindi in caso di anoressia, in questo caso invece sono di aumento dell'alimentazione, c'è la acantosis nigricans, che è proprio queste macchie scure, che questi aloni scuri che si hanno sotto l'ascella o dietro al collo, dovute ad un'aumentata alimentazione, quindi a un aumentato peso. E queste sono le strie distense, sono fondamentalmente come le chiamiamo noi, le smagliature, non mi viene il termine comune, manco le basi, diceva Verdone, dovute proprio alla pelle che si allunga e che tende a strapparsi. Ma ha detto Mauro di non parlare di famiglia. In realtà per me la famiglia è fondamentale. Perché? Perché è vero che tante cose possono nascere in famiglia, però è anche vero, come abbiamo detto, che spesso e volentieri è il vissuto, cioè noi dobbiamo pensare, io posso per esempio andare da Maria Cristina a darle una botta sulla spalla, lei può viverlo malissimo, ma io magari le ho schiacciato un ragno velenoso che stava cercando di attentarla. E dobbiamo pensare che è sempre il vissuto della persona quello che scatena le difese, non è detto che l'altro ti stia facendo del male per forza. Poi ovvio, le spengo la sigaretta addosso, no? È un altro paio di maniche, ma spesso e volentieri in tante famiglie normali, io sto leggendo nei quotidiani tantissime storie di vita, è vero, in questo momento la cronaca ci sta ponendo l'attenzione tantissimo, e quindi è anche interessante leggere di queste storie di famiglie normali dove a un certo punto la famiglia non si è resa conto che uno dei figli stava avendo un problema, cioè che uno dei figli stava prendendo una strada di difficile ritorno. Ecco, secondo me qui la famiglia è proprio la sentinella. qualunque tipo di famiglia sia, è comunque sempre i genitori sono comunque il genitore, i genitori, gli adulti significativi sono comunque quelle sentinelle che, se rimangono in relazione umana con i loro figli, ce la fanno. Non so se qualcuno di voi ha visto un film che non parla di alimentazione, ma molto bello, che è La stanza del figlio, film di Moretti. In quel film il padre scopre che il figlio 17-18enne, insomma ormai appena maggiorenne, aveva tutta una vita che lui non conosceva. Poi il figlio muore per una problematica e lui piano piano fa come se fece un ritorno indietro, cioè riapre quegli occhi e dice: ma io mio figlio ce l'ho avuto sempre davanti, ma non l'ho visto, perché aveva una fidanzata, aveva degli interessi, io proprio non ne sapevo niente. Poi lui faceva anche lo psichiatra, quindi lui si domanda, no, come faccio a vedere qualcosa ai miei pazienti se non vedo neanche mio figlio? Ecco, l'idea è quella di riaprire gli occhi, quindi di rimanere in contatto con i nostri figli e con i nostri giovani, perché può essere anche, ci sono figure significative, sono anche fuori dalla famiglia, no? Degli elementi base della famiglia che abitano sotto lo stesso tetto. Magari c'è quello zio fondamentale, quella zia fondamentale che invece ti vede, no? Quella nonna che abbiamo visto, no? Che ho menzionato prima, che ti vede e che ti riesce a dare una mano e, no? Può essere lei la prima a scatenare tutta una serie di dinamiche poi familiari che invece rinvertono quel circolo vizioso nel quale siete entrati per riportarlo in un circolo virtuoso. Allora, io avrei terminato, lascerei la parola a Maria Cristina. Ciao, buonasera a tutti, io sono Maria Cristina, anche io sono una biologa dello sportello di ascolto nutrizionale e sono un po' emozionata perché questo è un tema che mi tocca da vicino, perché io ho sofferto di disturbi per tanto tempo e diciamo l'argomento che mi premeva affrontare era provare a dare delle indicazioni, definire dei punti di riferimento a cui ci possiamo rivolgere nel caso in cui dovessimo purtroppo affrontare una problematica del genere. E quindi consigli su come orientarsi e a chi rivolgersi. Questo è per indicare, però sì, così vai, la devi mettere dove la devi mettere. Un attimo. Se vai giù vai avanti. Allora, intanto una prima cosa che dobbiamo definire, parlando di disturbi del comportamento alimentare o di DNA, disturbi della nutrizione, è che non possiamo pensare che ci sia solamente un sano e un malato. Cioè, tra queste due figure, questi due stati, esiste un continuum e quindi tutta una serie di sfaccettature, di sintomi, di stati d'animo, di stati d'essere. E quindi, per pensare a come intervenire, dobbiamo pensare a tutti questi diversi. Cioè, in che momento sono di questo continuum, e quindi in base al luogo in cui io mi trovo posso fare una prevenzione differente. Allora, la prima prevenzione in assoluto, e non so perché continuo ad andare indietro, si chiama prevenzione primaria, che è diciamo l'intervento che io attuo sul sano, cioè prima che ci sia la malattia. E, lo diceva anche Luca, la famiglia, l'ambiente in cui viviamo sono fondamentali per avere un rapporto sereno con noi stessi e con il nostro corpo. Quindi è importantissimo, laddove possiamo, creare un ambiente comodo, accogliente, consapevole di noi stessi e del proprio rapporto col cibo, evitare che il cibo e il proprio corpo diventino identitari di noi stessi, e quindi lavorare su questo aspetto di accoglienza su noi stessi. E poi, allora, esistono tantissime associazioni, di cui poi vi parlerò, che si occupano, anche con il patrocinio poi del Ministero della Salute, eccetera, eccetera, di fare informazione nelle scuole. Cioè, sono state identificate delle, diciamo, fasce di età, che è poi l'età dello sviluppo, dalle scuole, dalle primarie, poi alle università poi, che sono, diciamo, le fasce d'età più sensibili, e si è visto anche che laddove si precede, si informa, si educa su questo tipo di problematiche e su si fa educazione emozionale, educazione alimentare, allora c'è una minore possibilità di sviluppare queste patologie. E poi vi parlerò delle associazioni, però ci sono tantissime realtà che organizzano proprio laboratori, cioè si contattano e vengono a formare. Laddove purtroppo i sintomi iniziano già ad affacciarsi, si può fare quella che noi chiamiamo prevenzione secondaria, cioè identifichiamo chi inizia a sviluppare questi sintomi ed andiamo ad agire più, insomma, velocemente possibile per evitare che si cronicizzino e che si esprimano poi in delle difficoltà più importanti. Allora, qui ho pensato di sottolineare, allora, intanto se uno è un professionista o una figura di riferimento come quelle di cui parlava Luca, è importantissimo formarsi, cioè se sei un medico, se sei un pediatra, se sei un nutrizionista, se sei un insegnante, un professore a scuola, a me mi ha salvato una mia professoressa, se sei banalmente un insegnante di pallavolo, ginnastica artistica, informarsi su che cosa sono i disturbi del comportamento alimentare e come poi provare, insomma, a intercettare i primi sintomi è fondamentale. E anche qui tantissime associazioni hanno creato dei vademecum, dei fogli informativi dove si riesce a capire un po' quello che ci ha spiegato Luca, cioè quali sono i sintomi e come poi andare ad agire. Se invece noi pensiamo di essere un soggetto a rischio o se siamo vicini a persone che ci sembra dimostrino o comunque esprimano questi sintomi, è importantissimo affacciarsi a uno di quei professionisti che noi chiamiamo della salute. Allora, ovviamente il top sarebbe andare da uno psicologo, però non è automatico. Laddove c'è un disturbo della nutrizione, il primo professionista che viene contattato è un nutrizionista. Allora, noi ci formano e fortunatamente siamo abbastanza preparati in questo e ci è successo che allo sportello di ascolto nutrizionale al Quarticciolo è venuta questa ragazza. Allora, questa ragazza è stato abbastanza forte sentirla ad ascoltare, ovviamente è capitato a me, una ragazza sorridente, carina, normo peso, molto tranquilla, sopra i 30 anni, mai nessuno avrebbe detto che aveva un disturbo del comportamento alimentare, invece è proprio venuta da noi a chiedere aiuto, perché non sapeva più come gestire questo difficilissimo rapporto col cibo che aveva. Allora, è importantissimo ricordarci che i DCA o i DNA, in realtà non si chiamano, sono delle patologie molto complesse, cioè l'idea è questa, una sofferenza interna molto profonda si esprime attraverso dei sintomi fisici corporei, ok? Quindi i sintomi che noi abbiamo sono su tanti diversi livelli, non è soltanto l'aspetto fisico, abbiamo un aspetto di sofferenza psichiatrica, psicologica, abbiamo visto che sono classificate nel libro, nel DSM, abbiamo una difficoltà nutrizionale, per cui non riusciamo a gestire cosa mangiamo, cosa non mangiamo, di più, di meno, insomma c'è proprio una difficoltà nella relazione e questi sintomi poi dopo possono avere delle complicazioni cliniche, vomito indotto, utilizzo di lassativi, problemi, possono causare proprio dei problemi clinici, avere un peso troppo basso, troppo elevato e quindi avendo tutti questi livelli di sintomatologia, le figure professionali che si occupano poi di andare a curare e ad agire, insomma a supportare chi soffre di queste patologie sono diverse, abbiamo bisogno di medici, nutrizionisti, ma in primis psichiatrici, psichiatri e psicologi e quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto quella che si chiama prevenzione terziaria, cioè abbiamo indicato a questa ragazza dei luoghi che sono atti a supportare le persone che soffrono di queste patologie, quindi luoghi in cui esiste tutta un'equipe che attraverso un lavoro di squadra supporta queste persone. Allora, ovviamente quando si tratta di avere un portafoglio e di poter pagare una clinica è sempre tutto facile. Fortunatamente il nostro Ministero della Salute inizia un pochino a capire che è necessario creare una rete di supporto. Queste sono due realtà di Roma, quindi il Policlinico e la Sapienza, che è stato Luca a indicarmi. Però si è attrezzato a fare una mappatura territoriale in cui vengono indicati tutti quelli che sono i luoghi di cura e le associazioni che possono supportare in queste situazioni. Quindi andando a cercare piattaforma disturbi alimentari nell'Istituto Superiore di Sanità è facilissimo fare una ricerca, ovviamente se sei in Sicilia hai molte meno possibilità purtroppo come sempre, però questo è un ottimo modo di, insomma, di indirizzarsi, ok? Oltre a tutte queste strutture che sono pubbliche, quindi non sono a pagamento, esistono tutta una serie di associazioni no profit e senza scopo di lucro, che sono quelli di cui vi ho anche parlato precedentemente, che si occupano di fare formazione, di fare laboratori nelle scuole, di fare supporto alla cura, di fare supporto alla famiglia dei soggetti che sono in cura. Allora, Mi Fido di Te è un'associazione, diciamo, di riferimento, si trova in Umbria ma lavora su tutto il territorio, e loro sono bravissimi perché organizzano veramente tantissimo, tra cui anche hanno istituito questo numero verde dei disturbi del comportamento alimentare, che è un buon punto di riferimento sia in dei momenti, diciamo, critici, che anche poi per non so che cosa fare, sono la mamma di una persona che ha un disturbo del genere, chiamo e mi possono aiutare a capire come muovermi, chi contattarmi. Questi altri due link sono semplicemente dei raggruppamenti di tutte le associazioni che esistono sul territorio nazionale. E per cui poi dopo, sulla base di dove ci si trova, se siete medici di base potete andare a cercare, qualcuno vi aiuterà a formarvi. E, insomma, anche poi dopo portare nelle scuole, se avete qualcuno, cioè se conoscete qualcuno che può essere un punto di riferimento, consigliargli e dargli questi indirizzi può essere un buon modo, diciamo, di muoversi. E allora, io in realtà ho finito, ho soltanto qualche consiglio da darvi, perché questi tipi di disturbi sono ok, eccomi, sono emozionata, l'ho detto, e sono molto difficili da gestire. Una cosa che ci tengo molto a sottolineare è che i disturbi del comportamento alimentare sono una malattia e è importantissimo non sentirsi in colpa. Non c'è colpa di un genitore, colpa di un fratello, colpa di uno zio che non è stato bravo, ma sono delle malattie. Diciamo che è importantissimo tanto quanto considerare che sia una malattia anche non giudicare o sminuire i sintomi o chi soffre di queste problematiche, perché alle volte anche una piccola fetta di pane, un boccone può essere in più o in meno, può essere un grandissimo atto di coraggio e bisogna sottolinearlo, essere consapevoli di questo nel supporto di chi affronta questa patologia, che appunto è una malattia, sono malattie psichiatriche e quindi come tali vanno curate, ok? E bisogna approcciarle in questo modo. E anche per questo che è importante ricordarsi di non aver paura di chiedere aiuto, perché con i giusti strumenti, anche se sembra molto complicato, con gli giusti strumenti è possibile venirne fuori e stare bene. Grazie.